Benvenuti cari radioascoltatori a Giro di Boa, programma di dibattito e di approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dallo studio di Bruxelles Roberto con Michele alla regia e Alessandra in collegamento. Alessandra, ci sei? Sì, buonasera Roberto e buonasera anche a Michele dalla regia. Volevo iniziare ringraziando subito Roberto che questa sera sostituisce Annalisa in studio in quanto Annalisa appunto era impegnata. Grazie mille Roberto e buona collaborazione con Giro di Boa. Grazie mille Alessandra e iniziamo subito con un'introduzione al primo tema che sarà l'oggetto della discussione, del dibattito a Giro di Boa di questa sera. Si parla innanzitutto di Economist, un giornale che ha spesso parlato dell'Italia e non sempre in maniera così gentile, o meglio, The Man Who Screwed an Entire Country è il titolo dell'ultimo servizio che è stato realizzato dal settimanale britannico e si tratta di un articolo che è stato pubblicato a 8 anni dal celeberrimo Unfit to Lead Italy e a 5 dall'altrettanto polemico È tempo di licenziarlo. In questo articolo si sottolinea che, nonostante i successi personali, il premier Berlusconi si è rivelato 3 volte un disastro come Bunga Bunga, quindi la saga che lo ha visto protagonista e che lo vede ancora protagonista anche in ambito giudiziario. Il secondo sono le vicende legate giustamente al tribunale per rispondere alle accuse di frode, di truffa contabile e di corruzione, ma il terzo difetto che possiamo leggere nell'Economist è quello più importante e anche il peggiore. L'Economist sottolinea che il terzo difetto è il totale disinteresse per la condizione economica del paese, forse perché distratto dai problemi legali, in 9 anni come primo ministro Berlusconi non è stato in grado di trovare un rimedio o quantomeno di ammettere lo stato di grave debolezza economica dell'Italia. Il risultato è che si lascerà alle spalle un paese in grave difficoltà. La malattia dell'Italia, scrive l'Economist, non è di quelli di tipo acuto, si tratta piuttosto di una malattia cronica che pian piano mangia via la vitalità. Il nostro paese ha avuto infatti il più basso tasso di crescita di tutti gli altri paesi del mondo occidentale. Tra il 2000 e il 2010 il PIL è cresciuto dello 0,25% all'anno, un dato allarmante. Ora, su questo argomento, Alessandra, tu hai un ospite che potrà sicuramente darci la sua opinione autorevole, vero? Sì, esatto. Abbiamo in collegamento questa sera un ospite con noi, che è già in collegamento, Prof. Marco Simoni. Ci sente? Mi sento benissimo, buonasera a tutti. Buonasera a lei e grazie dell'invito. E grazie soprattutto per aver accettato il nostro invito. Dunque, il prof. Marco Simoni è economista e politologo, insegna economia politica alla London School of Economics. Simoni è esperto di capitalismo comparato e relazioni industriali e fa l'editorialista per l'Unità. È membro anche del comitato direttivo di Italia Futura, luogo di ideazione civile, politica ed economica. Dunque, prof. Simoni, lei ha da diversi anni vive a Londra e lavora a Londra. Vista la sua professione ed il suo impegno con Italia Futura, è senz'altro un analista attento della realtà economica italiana. Condivide l'analisi fatta dall'Economist oppure ritiene che l'analisi sia di parte e la rivista si sia dimostrata ancora una volta anti-italiana? Ma soprattutto, dalla sua posizione, se l'aspettava una critica di questo tipo dall'Economist? Ma a dire la verità, un po' me l'aspettavo, cominciamo dalla parte finale, nel senso in cui l'Economist in maniera periodica fa delle revisioni delle performance economiche dei vari paesi, con delle attenzioni particolari nei casi di maggior crisi. L'Italia in questo momento, non da poco, ma da ormai almeno un lustro, è evidente a tutti che l'Italia è in una sorta di stagnazione economica gravissima, che non è iniziata appunto 5 anni fa. La stagnazione economica va avanti in maniera inesorabile e apparentemente inarrestabile da almeno 15 anni. Negli ultimi 5 si è capito quanto era grave perché i conti, i nodi vengono al pettine. E poi, se a questo ci sommiamo il fatto che l'Economist, non ha sempre avuto un rapporto facile con Berlusconi, come molta della stampa straniera, non certo soltanto l'Economist, si capisce anche, un titolo forse un po' eccessivo per lo stile British, che di solito è molto più understated. Però l'analisi economica è impeccabile. L'economia italiana è in uno stato di crisi quasi unica, diciamo che forse un po' può ricordare il Giappone degli anni 90, dal punto di vista, diciamo, di un esempio di una grande economia industriale che per decenni, lunghi decenni, è stata l'economia più brillante dell'Europa, nel caso del Giappone del mondo, che a un certo punto quasi inspiegabilmente inizia a declinare. Ma sono comunque casi molto rari. Cioè l'Italia ha negli anni 60, 70, 80 è cresciuta più di qualsiasi altro paese europeo in media, è largamente superiore alla media europea. Adesso, diciamo, noi dopo la crisi siamo l'unico paese europeo che è diventato più povero rispetto al 2000. Se noi prendiamo gli italiani del 2000 e prendiamo gli italiani oggi sono più poveri, in assoluto, non è che sono più non sono abbastanza più ricchi, no, sono proprio più poveri direttamente. E questa è una cosa che nessun altro paese, non dico può vantare, perché c'è poco da vantarsi, in tutti gli altri paesi la crisi economica certo ha fatto diminuire il reddito, però rispetto a qualche anno fa, rispetto a poco prima della crisi, non rispetto al 2000. È come se negli scorsi 10 anni appunto l'Italia sia rimasta assolutamente ferma, anzi decresciuta un po'. E, gli effetti non sono soltanto effetti economici in senso stretto, ma gli effetti economici più evidenti sono sulla caduta dei redditi delle persone più giovani, un mercato del lavoro sempre più duale, con sempre meno prospettive per chi non solo ha meno di 25 anni, ma anche per chi ha meno di 40 anni, quindi con una famiglia, dei figli verosimilmente. E la situazione è molto, molto urgente. E in questo, diciamo, condivido condivido la lettura dell'Economist, non c'è alcun dubbio che il governo in questo momento porta la maggiore responsabilità, non soltanto Berlusconi, ma anche il suo ministro dell'economia, insomma, non è che Tremonti prende ordini da Berlusconi Tremonti è una sua autorevolezza, ha impostato una sua linea politica, le decisioni di politica economica nel governo è abbastanza evidente che li prende lui. Ecco, il non prendere atto della crisi, il non essere in grado di affrontare con riforme profonde la situazione è una responsabilità che gli rimarrà per molti anni a venire. La settimana scorsa, con l'inviato del Sole 24 Ore a Bruxelles, Antonio Pollio Salimbeni, abbiamo discusso delle misure chieste a Grecia e Portogallo per evitare la bancarotta. La situazione in Italia, come lei diceva, è diversa, il paese non rischia la bancarotta, però appunto è affetto da 15 anni di stagnazione. Roberto prima in apertura citava la media con cui è cresciuta l'Italia negli ultimi 10 anni, 0,25% annuo, cioè un dato. In realtà diciamo sì, forse si prende il 2001. Mi sembra anche tanto, diciamo, vorrei vedere i dati. Addirittura l'Economist è stato generoso nella media degli ultimi 10 anni. Dunque l'obiettivo non può essere che tornare a crescere. Quali le misure coraggiose, a questo punto bisogna definirle, che bisognerebbe prendere per rilanciare l'economia e che il governo Berlusconi, oppure come lei citava, il ministro dell'economia Tremonti, non ha voluto prendere o non ha preso in questi ultimi 10 anni? Guardi, io non so se sono misure coraggiose, perché io penso che le misure coraggiose sono quelle prese dalla Germania negli anni 2000 o dalla Svezia, cioè le misure coraggiose sono quelle che sono lungimiranti, no? Che in un momento in cui uno non se l'aspetta, non deve farla per forza, si fanno una riforma che deve mettere in grado un paese poi dopo 10 anni di coglierne i frutti. Quelle sono coraggiose. In Italia non c'è bisogno di coraggio, in Italia siamo a un livello talmente basso di potenzialità di sviluppo che siamo a livello di necessità totale. E diciamo i tipi di riforma che vanno fatti, esiste anche un certo grado di consenso rispetto a chi queste cose se ne occupa, diciamo, al di là noi di Italia Futura, abbiamo detto molte volte, ha detto Montezemolo, quanto l'intervento di Draghi, ad esempio, l'ultima sua considerazione finale, conteneva in merito alle cose da fare. Io penso che una serie di nodi da affrontare in maniera simultanea, diciamo, perché non è una cosa che come dire, non c'è la pallottola d'argento che uccide il vampiro, come si dice in inglese, ma una serie simultanea di riforme che diano il senso di una direzione nuova. Alcune riguardano l'ambito fiscale. Non è più tollerabile il binomio grande evasione e allo stesso tempo grande pressione fiscale sui lavoratori e sulle aziende. Bisogna legare tra loro la lotta all'evasione e non le spese un po' oscure e gli altissimi costi che la politica continua a chiedere ai cittadini, come ha fatto Tremonti negli ultimi anni, ma legare sistematicamente la lotta all'evasione alla riduzione delle tasse per chi le tasse le ha sempre pagate, stabilendo un nuovo patto fiscale in cui lo Stato è più rispettoso dei cittadini e i cittadini capiscono che pagare le tasse è un problema di patto tra di loro, non è un problema rispetto a uno Stato assente e lontano, è un problema di convivenza civile. Secondo punto, il mercato del lavoro. Unificare i regimi di precarietà estrema in cui sono i giovani, cioè i giovani anche qui è un'espressione completamente inappropriata, cioè, le persone sotto i 40 anni, quelli entrati in lavoro sulla fine degli anni 90, limitando drasticamente l'uso dei contratti cosiddetti precari e istituendo un nuovo contratto per i nuovi assunti, che senza toccare nulla dei contratti già esistenti di lavoro, dei contratti di chi ha già un lavoro, diciamo, però impediscano che si reiteri in continuazione i contrattini di 3 mesi senza nessun tipo di diritto, di tutela e soprattutto che generano uno sviluppo perverso per cui né il lavoratore né l'azienda in cui il lavoratore stabiliscono un rapporto di lungo periodo che gli consente di crescere insieme. Il terzo, diciamo, la terza gamba, diciamo, di questo inizio, poi ci sono molte altre cose di cui bisognerebbe parlare, riguarda le liberalizzazioni, la semplificazione che dovrebbe accompagnarsi alla possibilità di creare una impresa e un'azienda nel nostro paese, che sono anche queste misure che tutti gli ultimi 4 governi, cioè non solo centrodestra, però centrodestra ha governato di più, quindi ha più responsabilità, hanno più volte sbandierato senza portare mai a termine. Questi, questi tre ambiti già potrebbero, come dire, dare uno slancio diverso. Poi bisognerebbe accompagnarsi ad altre cose, bisognerebbe accompagnarsi a un taglio selettivo della spesa per consentire di togliere risorse dove non servono, per esempio le province, per esempio dei costi sempre più inappropriati che lo Stato e gli enti pubblici fanno, e poterle trasferire lì dove ce n'è bisogno, la scuola, la ricerca e così via. Però poi diventa un po' troppo lungo, finisco qui direi. Beh, in ogni caso possiamo dire, questo credo che sia stato anche messo in evidenza dall'Economist, che l'Italia in ogni caso è un paese civilizzato, ricco e senza conflitti, nel senso l'Economist non ha parlato male dell'Italia in generale, quindi esatto, volevo avere una sua opinione su questo ambito. L'Italia, perché Noi abbiamo, come diceva, noi non siamo destinati al declino economico per forza, ovvero non siamo destinati a continuarlo all'infinito, e noi abbiamo una quantità di capitale in senso lato, ampio, quindi non solo risorse finanziarie, ma capitale umano e capitale sociale, cioè la rete di relazioni che caratterizza il nostro paese è più unica che rara, e non tutte le relazioni sono come quelle delle intercettazioni di questi giorni, sono tante relazioni che sono positive, basate sulla fiducia, su rapporti di lunga durata che consentono di fare tante cose. Su quello bisogna investire, ma finché non si riesce a spezzare alcuni nodi che hanno invece aumentato i conflitti nel nostro paese, perché è chiaro che i conflitti sono ancora, relativamente latenti, però noi siamo in questo momento in presenza di un'Italia che è profondamente spaccata. Cioè, guardare a Napoli quello che succede in questi giorni e pensare che non ci siano conflitti, non ci sono, e come, sono dei conflitti gravi che non si riescono a risolvere. È una delle ragioni chiave per cui non si riescono a risolvere, perché non c'è crescita economica, ci sono sempre meno risorse e ci si azzuffa come i polli di Renzo sulle poche risorse che sono rimaste. So che le sta particolarmente a cuore è la questione dei giovani, e la citava anche prima. Questa situazione rende difficile ai giovani costruirsi una carriera in Italia. Che cosa si sente di augurare ad un giovane intraprendente laureato italiano di 5-26 anni circa? Che prospettive ha di fronte? E se non ha voglia di lasciare il suo paese? Guardi, è difficile dare consigli generali di questo genere, perché le storie personali sono tutte diverse, no? E alla fine una decisione di questo genere è sempre una decisione personale. Io, quando sono partito per andare prima in Svizzera, poi a Ginevra, poi a Londra, seguendo le cose che mi interessavano, l'ho fatto perché avevo voglia di farlo. Io credo che la stragrande maggioranza di persone che decidono di andare fuori lo fanno perché seguono, come dire, chi un sogno, chi una fidanzata, chi un fidanzato, chi una curiosità. Non esiste una ragione sola per la quale si va fuori. Il dramma, diciamo, dell'Italia degli ultimi 10 anni non è che tanti italiani se ne vadano. Questo è normale, fa parte della globalizzazione. Cioè, fino a 10 anni fa non si poteva fare, perché non c'era Ryanair, non c'era EasyJet, non si poteva andare e tornare con 50 euro da una capitale europea, no? Il dramma è che nessuno va in Italia, nessuno viene in Italia. Per cui, diciamo, questo dal metro, nessuno viene in Italia a aprire un'azienda. Cioè, un investitore straniero, gli hedge funds, si fermano, i fondi, diciamo, privati di private equity, di persone che investono nelle aziende o nelle start-up, si fermano tutti alle Alpi. Nessuno investe in Italia. Perché come fa uno a investire in Italia avendo tanti adempimenti fiscali da dover svolgere ogni anno e una quantità infinita di piccole leggi rispetto alle quali anche il commercialista bravo ha delle incertezze. Questo, diciamo, è il problema dell'Italia in questo momento. E se uno adesso ha 25 anni deve, come dire, il consiglio è quello di andare e di fare ciò che l'istinto gli suggerisce, che di solito è una buona guida. Lei, in un articolo che ha scritto alcuni giorni fa, concludeva scrivendo: incapace di ascoltare e preoccupata da altre faccende, la politica italiana ha grandi responsabilità per la condizione attuale. Eppure l'Italia ha risorse non solo per trovare il senso di una sua ricostruzione unitaria, ma anche per contribuire alla ripresa di tutto il continente. Dunque, diciamo, stai parlando di Draghi, no? Sì, esatto. Perché ho trovato particolarmente metaforico il fatto che Draghi è un italiano, no? Un italiano come noi, come tutti. E un italiano a cui nel momento di massima crisi dell'euro, cioè l'euro, diciamo, poi non abbiamo parlato dell'euro, è un'altra cosa, è una cosa diversa, di massima crisi della moneta unica, in cui ci sono avvoltoi che suggeriscono addirittura che l'euro potrebbe frantumarsi, come tornare a varie monete nazionali, in cui i mercati sono lì attenti a quello che succede nei paesi a rischio di debito. Insomma, in un momento di grande difficoltà, i grandi paesi europei, i grandi leader di tutti i paesi europei, a chi hanno chiesto di guidare questo processo? A un italiano. Ora, detta così, come dire, ribalta completamente l'immagine che spesso si dà dell'Italia, no? Gli irresponsabili, il paese del bunga bunga, quelli che non c'è sempre il debito pubblico. Eppure, nel momento di massima crisi, chi è che viene chiamato a fare il capo della situazione? Massima responsabilità politica continentale, un italiano. Ma io a questo punto le volevo chiedere, secondo lei Mario Draghi è stato scelto per le sue capacità personali, certo, oppure è un riconoscimento all'Italia? Quale? No, non c'è nessun riconoscimento all'Italia. Non c'è nessun riconoscimento all'Italia. È chiaro che è stato scelto per le sue qualità personali, perché non c'è nessuno come lui in questo momento che abbia un'esperienza di banca centrale, di finanza internazionale, di aderenza ai principi economici condivisi dalla maggioranza, ma in maniera non in maniera aperta, diciamo, ai cambiamenti e alle sfide che ci possono essere. Quindi è chiaro che è una scelta individuale, però è anche una scelta di un italiano. E allora la cosa che è paradossale è che nelle sue conclusioni, le ultime sue considerazioni, Draghi diceva: io sono 6 anni da quando sono governatore che dico, non dico sempre le stesse cose, ma quasi, sull'importanza della crescita. Ecco, in Italia nessuno l'ha ascoltato, all'estero invece l'hanno ascoltato bene, visto che gli hanno chiesto poi di andare addirittura a assumersi la massima responsabilità. Quindi il punto è che io penso che le qualità che sono in Italia non solo sono tante, ma sono anche particolarmente indicate per affrontare i problemi del tempo futuro. Perché noi siamo un popolo fatto di tante diversità, parliamo dialetti che sono delle lingue diverse, abbiamo una tradizione storica antichissima di commercio, di scambio con altri paesi. Come dire, le cose della globalizzazione noi le abbiamo sempre conosciute, fanno parte della nostra storia e abbiamo una, diciamo, quantità di persone ad altissima, con formazione altissima, notevolissima. E è chiaro, in questo momento noi soffriamo di 15 anni di stagnazione economica. Tutte le cose che non vanno, non ci piace le cose della cultura, la cultura non sviluppa abbastanza talenti, la televisione è mediocre, l'editoria, i giornali, cioè tutte la lista di lamentele che ognuno ha, variano a seconda di che tipo di professione che fa, sono tutte legate al fatto che non c'è più crescita economica. Perché non c'è crescita economica, non ci sono le risorse, non si possono costruire le strade, non si può fare la metropolitana che serve a Roma, a Napoli o a Milano, non si può fare niente. Noi sono 15 anni che non si può fare niente perché siamo intrappolati in un equilibrio di zero crescita. Su questo però, effettivamente l'economia, una serie di riforme, questo può invertirsi, cioè può invertirsi la spirale e a quel punto l'Italia può davvero giocare un ruolo importante anche in Europa, non soltanto appunto preoccuparsi del proprio orticello. Sì, effettivamente su questo tema anche l'Economist naturalmente ritorna, sottolineando in particolare quello che è un male tipico italiano che conosciamo, è la famosa gerontocrazia istituzionalizzata che rende difficile ai giovani la possibilità di costruirsi una carriera. E il problema sembra quello di richiamare migliaia di giovani che sono emigrati di talento, effettivamente potrebbero avere un impatto molto positivo per il paese. Su questo argomento, qual è la sua opinione? Nel senso, secondo lei il fatto di richiamare dei giovani di talento all'ora attuale è possibile? Questo, il tema degli italiani, il punto non è far tornare gli italiani di talento, il punto è far arrivare persone di talento, di qualsiasi nazione siano. E smettere di farle andare via. Il problema, diciamo, della gerontocrazia, del fatto che ci sono troppe, sono tutte, diciamo, come dire, facce della stessa medaglia. Un mercato più liberalizzato, dove sia possibile non avere tariffe minime per gli avvocati e sia possibile comprare una casa con 2 avvocati che fanno il lavoro del notaio, consentirebbe a tanti studi di giovani avvocati di iniziare a fare concorrenza e magari gli studi di vecchi avvocati che non sono più così tanto bravi. Dico una cosa banale, la prima che mi è venuta in mente, ma lo stesso può applicarsi a qualsiasi altro settore, cioè all'università, che è uno dei posti in Italia dove è più chiuso rispetto a quanto invece è internazionalizzato nel resto del mondo avanzato, con delle lodevoli eccezioni, che però appunto sono delle eccezioni. Il punto non è quello di inventarsi la leggina per il rientro di chi fa professore all'estero, il punto è invogliare le persone a venire in Italia per motivi indipendenti dalla leggina, avere dei centri di ricerca ben finanziati, avere un sistema di assunzioni trasparente e meritocratico. Questo fa cambiare l'università, non una legge ad hoc, diciamo. Siamo ormai arrivati in conclusione, dunque non ci resta che fare l'ultima domanda. Io le volevo chiedere, sul sito di Italia Futura, dunque come si diceva prima, lei fa parte del comitato promotore direttivo di Italia Futura, c'è una piccola definizione dell'associazione e si dice che l'associazione è nata per promuovere il dibattito civile e politico sul futuro del paese, andando oltre le patologie di una transizione politica infinita e ripetitiva. Secondo lei, quando la transizione politica finirà? Non ho la sfera di cristallo, quindi non sono in grado di dare una risposta però precisa diciamo la domanda. In questi momenti il punto di, che di cambiamenti diciamo, magari avremo. No, scusi, non ho capito. No, dicevo che magari in questi in queste settimane di cambiamenti che ci sono in sì. atto. No, in queste settimane io penso che i cambiamenti per ora sono soltanto accennati. Cioè, in queste settimane abbiamo avuto la sensazione che sia possibile fare delle cose diverse, però mi sembra che abbastanza rapidamente siamo tornati alle cose a cui siamo abituati, cioè le intercettazioni, l'opposizione che litigano tra di loro, cioè nel giro di 2 settimane siamo tornati capo a 12, diciamo. Io penso che una delle, cioè non so quando finirà la transizione, ma le posso dire una cosa che penso, che sarà chiaro che la transizione è finita quando si avrà la percezione che il dibattito pubblico ha un livello diverso, che anziché, come dire, fare titoli sul fatto che, leggevo poco fa internet, sul fatto che qualcuno ha insultato qualcun altro per telefono, perché finora questo è uscito, no? Sono usciti gli insulti di qualcun altro su qualcun altro al telefono, oppure di Pietro parla con Berlusconi e quindi ci sono degli altri insulti contro Di Pietro, contro, ecco, quando invece di aprire il giornale su queste cose, si apre il giornale, come più o meno in quasi tutti i paesi civili, e si discute se è meglio tassare la prima casa o tassare la seconda casa, cioè, e si affrontano dei dibattiti sulle cose che interessano le persone, ecco, forse a quel punto la transizione sarà finita. Bene, noi ringraziamo Marco Simoni per l'intervento e riprendiamo la linea dallo studio di Bruxelles. Grazie mille. Grazie Marco Simoni, e per introdurre il prossimo ospite metteremo un pezzo musicale che fa parte del suo secondo CD. L'ospite musicale per la pausa, dopo la pausa, sarà Giacomo Lariccia. Giacomo Lariccia è un chitarrista e cantante che vive a Bruxelles da 10 anni. Ha iniziato la sua carriera musicale come chitarrista jazz dopo gli studi al Conservatorio Reale di Bruxelles ed è vincitore di diversi premi in Europa. Ha iniziato nel 2009 a proporre un progetto di canzone italiana che si è aggiudicato la vittoria del secondo premio al Biella Festival. E intanto ascoltiamo un brano dal suo secondo CD, Colpo di Sole, che ci presenterà, e il brano si intitola Scendo Pedalando. Scendo pedalando. Cari radioascoltatori, ben ritrovati a Giro di Boa. Abbiamo sentito Scendo Pedalando di Giacomo Lariccia, e Giacomo Lariccia è ospite in studio qui a Bruxelles. Ciao Giacomo. Buonasera Roberto, buonasera a tutti. Allora Giacomo, buonasera e benvenuto. Grazie. La voce di Alessandra ti annuncia questa nostra curiosità, in particolare Alessandra ha una domanda da porti riguardo un po' in generale il fatto di Alessandra. Sì, esatto, mi incuriosiva il fatto che un musicista viaggia molto, con la fantasia ma anche fisicamente. Tu sei partito dall'Italia? Hai viaggiato nel nord, nel sud, che cosa ti ha portato a scegliere fra tutti i posti di stabilirti e di lavorare a Bruxelles? Ma soprattutto, pensi che la tua vena creativa dipenda dal contesto dove tu vivi e che questo non sarebbe stato possibile in Italia, oppure è un caso che uno come te, nato a Roma, si trovi a fare musica a Bruxelles, in Belgio? Allora, tante domande. Allora, la prima era la prima era perché. No, la prima era che cosa ti ha portato a Bruxelles? Mi ha caso? No, la musica, l'amore? la musica. O poi la pioggia. La pioggia no. Mi ci ha portato la musica, mi ci ha tenuto l'amore e in tutto ciò ho sempre fatto musica. E mi ci ha portato la musica perché sono venuto a studiare qui al Conservatorio di Bruxelles 11 anni fa ormai, per quella che doveva essere un'esperienza di un anno. Dopo quest'anno l'esperienza è diventata di 2 anni, poi di 3, poi di 4, come sanno quelli che stanno qui a Bruxelles, si arriva qui per 6 mesi e poi non si parte più. Poi l'altra domanda interessante era, la tua musica sarebbe la stessa, quant'è l'influenza del posto in cui vivi? L'influenza è enorme, non solo per gli stimoli musicali che in questi anni sono stati tantissimi, perché gli studi al conservatorio, il fatto di suonare con gente di ogni orizzonte, di aver viaggiato per concerti dal Bahrain fino alla Francia, alla Tunisia e così via, assolutamente le influenze musicali, la bellezza delle cose che ho scoperto non si può, è talmente tanta che non se ne può parlare. Però come faccio a dire come sarei se fossi rimasto a Roma? Sicuramente sono felicissimo di stare qui e di fare quello che faccio qua. Giacomo, questo CD, Colpo di Sole, è il tuo secondo CD, il primo CD Spellbound risale a 3 anni fa, e il primo CD era più orientato a quello che è la tua formazione, quella di chitarrista jazz, c'erano molte aree più jazziste, chiamiamole così. Ora invece sei andato più a esplorare la tua vena di cantautore. Raccontaci un po' come è nato questo CD. Allora, una volta mi diceva un musicista qualche anno fa che una volta finiti gli studi di musica ci vogliono almeno 5 anni per capire qual è quella che è la propria strada. E questi 5 anni ce l'ho messi tutti, nel senso che finiti gli studi, finito il conservatorio, ho iniziato a pensare, a riflettere, a suonare e cercare di capire qual era la musica che mi apparteneva in modo più profondo. Quindi Spellbound io lo considero, ma forse anche questo disco qui fra un paio d'anni lo considererò come un passaggio verso una successiva evoluzione. Spellbound è stato un disco di musica improvvisata prevalentemente, con l'intervento di alcuni cantanti, e in quel periodo ho iniziato anche alcune collaborazioni nella musica leggera come chitarrista, semplicemente, che mi hanno portato a riscoprire in qualche modo la potenza, la forza della parola, che io ho sempre, i cantautori italiani mi hanno accompagnato in tutta l'adolescenza, in tutta la mia crescita emotiva, personale, umana. E per gli studi al conservatorio in qualche modo avevo messo da parte tutto quel mondo per concentrarmi esclusivamente sul suono, sulla chitarra e sulla musica non cantata, che forse è stata proprio un'operazione a cuore aperto, perché come si fa a separare in questo modo, però mi sono concentrato più sullo strumento. Dopo il primo disco ho iniziato a scrivere dei testi che non pensavo, senza alcuna vellità, proprio così semplicemente perché ne sentivo il bisogno. Per una serie di ragioni questi testi sono arrivati ad un concorso, poi ad un altro concorso, sono entrato da questi concorsi, come dico di solito durante i concerti, sono entrato nel Biella Festival che citava prima Roberto come chitarrista, che va a fare un'esperienza nuova, e sono uscito dopo 3 giorni come cantante. Quindi 5 anni per diventare chitarrista, 3 giorni per diventare cantante. Giacomo, prima di addentrarci nelle tracce di questo CD, volevo citare una frase che tu hai scritto all'interno del libretto del CD, e c'è scritto una cosa molto particolare che credo poche persone possano dire. Ringrazio la crisi economica e quella discografica perché ci hanno fatto rimboccare le maniche e trovare energie e risorse dove non avremmo mai immaginato. Secondo me questo è un po' quello che racchiude l'avventura in musica. Ci vuoi parlare di questo progetto? Allora, sembra strano ringraziare la crisi economica e soprattutto la crisi discografica. Bisogna dire però, innanzitutto a quelli che ci ascoltano, bisogna ricordare che il mondo della discografia da 10 anni, se si guardano i grafici delle vendite, sta in un crollo totale, nero, per cui tutte le case discografiche, grandi e piccole, da 10 anni non fanno altro che fallire, cambiare dirigenza e così via. In questo clima, è evidente che proporre un autore, un cantautore sconosciuto, giovane, è un rischio che pochi si possono permettere. Ma sì, io ho sempre avuto un enorme senso di facilità, di vicinanza, sono sempre stato molto attirato dalle nuove tecnologie, per cui mi sembrava assurdo che le tecnologie avessero affossato la musica, il mondo musicale, senza nessuna speranza. Ed è proprio da lì che siamo ripartiti per creare un nuovo modello produttivo che io avevo subodorato, di cui avevo sentito parlare qua e là nel mondo, negli Stati Uniti soprattutto, ovvero che è quello di far partecipare le persone che ascoltano la musica, che apprezzano la musica e che apprezzano l'autore in questione, cioè io, farle partecipare a tutta la produzione del disco, ovvero, si può spiegare in mille modi, quando uno fa un disco va, fra virgolette, a rompere le scatole a gente quando il disco è fatto. Come dicono a Napoli, accattateville. Mentre invece quello che abbiamo fatto noi è stato non vi prendete solo il disco, prendetevi tutto il sogno che c'è dietro, lo sviluppo che c'è dietro, con i momenti belli, con i momenti difficili, con le speranze, con i racconti della registrazione, le interviste ai musicisti, la scelta del singolo. Scendo Pedalando è stato scelto dopo un sondaggio da queste 100 persone che hanno finanziato questo disco, hanno partecipato al videoclip. Se le persone che ci ascoltano vanno su YouTube e cercano Scendo Pedalando, troveranno un videoclip con degli attori chiaramente non professionisti, che sono alcuni di quelli che hanno sostenuto questo progetto. E io ho chiamato questo progetto Avventura in Musica. Giacomo, si è parlato di testi, di parole, di cantanti, di cantautori. Sul tuo sito si legge che tu, il tuo nuovo disco è il primo disco che hai fatto da cantastorie. Chi è il cantastorie nel 2011? E qual è la differenza con un cantautore? Ah, questa domanda mi coglie impreparato. Però io penso che in questo disco forse una delle cose particolari che c'è è che ripropone in 4-5 pezzi dei racconti che io sentivo quando ero bambino intorno al camino, raccontati dal nonno, ovvero delle storie della Seconda Guerra Mondiale, dell'Italia che esce dal Secondo Conflitto Mondiale. E queste storie parlavano di un attendente che dopo l'8 settembre, insieme al tenente che stava con lui, riesce in modo rocambolesco ad arrivare a Roma. A Roma si nasconde perché comunque l'ordine dai tedeschi era quello di portare tutti nei campi, tutti i militari nei campi o i graduati nei campi. Riescono insieme a questo tenente a nascondersi e un bel giorno ruba una bicicletta, la bicicletta del tenente, e fugge verso il sud, verso la Calabria, dove abitava, dove probabilmente qualcuno lo stava aspettando. Allora, i racconti che io ascoltavo si fermano qui, perché il tenente, che era mio nonno, mi diceva che questo attendente cancione in bicicletta gli aveva rubato la bici e poi non se n'era saputo più nulla. E qui io ho voluto invece iniziare le mie canzoni, che parlano di questa storia, secondo me, estremamente romantica, di questo attendente cancione che in bicicletta affronta 500 chilometri, un'Italia in guerra, con gli alleati al sud, i tedeschi al nord, per raggiungere. L'ho trovata una storia veramente bella, forse per questo cantastorie, il cantautore è forse un po' più generale, ma qui c'è proprio un racconto che passa attraverso due o tre canzoni e propone pensieri che io ho pensato che questo attendente cancione abbia avuto nella sua pedalata verso il sud. Beh, questa canzone, la numero 2, l'attendente cancione in bicicletta, fa parte di questo CD, di cui la numero 6 è una canzone che richiama un po' anche il tema di cui abbiamo discusso con il nostro ospite Marco Simoni prima. Si intitola Povera Italia. Giacomo, io la farei ascoltare ai nostri ascoltatori e poi continuerei a parlare e della canzone e delle altre tracce. Eccoci qua con Giacomo, abbiamo sentito Povera Italia, in cui si dice cambio paese, cambio continente. Continente non l'hai cambiato, Giacomo, però paese sì. Questa è una delle tracce e nelle altre si nota una certa ricerca, perché comunque hai fatto un omaggio alla tradizione della pizzica, hai parlato anche in una canzone molto impegnata della strage delle Fosse Ardeatine. Raccontaci un po' le varie anime di Colpo di Sole. Allora, c'è un tema che rende forse questo disco un po' retro dal punto di vista delle storie, perché appunto, come dicevi, è il tema storico. Ci sono almeno 4-5 brani che sono proprio una riproposizione di questi racconti che io sentivo quando ero piccolo. E poi ci sono altri brani che fanno un po' da contorno, alcuni di critica sociale, altri di semplicemente sono giochi di parole, nel senso proprio l'accostamento, come la canzone che farò sentire dopo, l'accostamento proprio di parole per il piacere di sentirlo, per l'effetto che provano, insomma un gioco di scrittura, possiamo chiamarlo così. E basta, ma come diceva prima Alessandra, forse una cosa che identifica questo disco è la voglia di raccontare delle storie, la voglia proprio di dipingere un quadro, la voglia di narrare un avvenimento, la vita di una persona che magari non ha potuto raccontare la sua storia, il suo vissuto, ma che lo ha vissuto in maniera a volte anche tragica, come dicevi tu nella canzone che parla delle fosse ardeatine, Roma occupata. Giacomo, quando è stato pubblicato il tuo ultimo CD e quali sono i prossimi eventi che ti vedono protagonisti a Bruxelles? Allora, questo CD è stato stampato in una prima tiratura un mese fa, abbiamo fatto un concerto di presentazione, ma è stata una presentazione un po' strana perché non abbiamo avvertito la stampa, e in Belgio lanceremo il disco a partire dal 21 settembre. In Italia probabilmente anche, se le cose andranno come dovrebbero andare, dovremmo fare anche un'altra promozione attraverso un'etichetta che sia interessata a questo disco. I prossimi concerti a Bruxelles sono il 29, mercoledì prossimo, per festeggiare l'estate, faremo un grosso concerto a Merod, sì, davanti al parco, più in particolare davanti ad un locale che si chiama Belli e Buoni, all'aperto, sperando che ci sarà un bel sole e un bel caldo. Suoneremo con un gruppo anche abbastanza grande, saremo in 6, violoncello, contrabbasso, batteria, percussioni, trombone, sarà una gran festa, e quindi invito tutti gli ascoltatori a partecipare. E se qualcuno volesse comprare il tuo CD? Allora, per adesso, fino a settembre, questo disco si trova sul sito mio, www.giacomolariccia.com, naturalmente da Piola Libri, si troverà da Belli e Buoni, Arza, per chi lo conosce, una società che organizza eventi, e mi sembra per il momento basta, quindi è distribuito, diciamo, in maniera artigianale. A partire da settembre, come si dice nelle migliori pubblicità, nei migliori negozi di musica. Giacomo, penso che Alessandra sia concorde con me nel fatto che chiaramente tu hai parlato di musica, ci hai fatto vivere anche il tuo sogno un po' da cantastorie, ma un musicista è fatto per suonare e per cantare, e quindi vorremmo chiederti di interpretare una delle canzoni del tuo nuovo CD, così in diretta per gli ascoltatori di Radio Alma. Con piacere, canterò il primo pezzo del disco che si chiama Freddo, e che spero che non sia il tempo che ci accompagnerà mercoledì prossimo 29 a Merod, più in particolare a Avenue de Tervuren 29, mi sembra. E Freddo. Cari ascoltatori, credo che questa sia stata una notevole dimostrazione di bravura, e non so se come me avete avuto questa sensazione di partecipare veramente ad una storia, ad una bella storia raccontata in parole e musica da Giacomo. Giacomo, noi ti ringraziamo per la presenza, per tutto quello che ci hai regalato come emozioni, e speriamo che tutti i sogni legati a questo disco, che già hanno portato innanzitutto ad avere un CD in carne ed ossa, possiamo chiamarlo così, disponibile, ti porteranno anche ad avere successo a Bruxelles, in Belgio e in Italia. E con questo in bocca al lupo da parte mia, lascio un ultimo saluto ad Alessandra. Sì, Giacomo, non ci resta che ringraziarti, augurarti un in bocca al lupo, di sentire poco freddo e di avere un bellissimo concerto. Grazie mille, grazie a tutti, buona serata, e al 29, mercoledì 29. Ringraziamo tutti gli ascoltatori, un saluto ad Alessandra. Un saluto anche a te Roberto e a Michele dalla regia, ovviamente salutiamo anche Annalisa che questa sera non è potuta essere in studio con noi, e buona serata a tutti i nostri radioascoltatori. E alla prossima settimana con Giro di Boa, grazie.